cari colleghi e cari amici, nella imbarazzante situazione di dover presentare me stesso, e specialmente, come ovvio, ai più giovani colleghi di Germania ed Austria. Ho cominciato la mia attività come studioso dei movimenti religiosi, e poiché i movimenti religiosi non sono nell'aria, ma in concretezza di realtà storica, sono dovuto passare allo studio di tutto quello che questi movimenti religiosi accompagnavano. Debbo in particolare alla affettuosa insistenza della professoressa Fasoli qui presente, se partendo da un personaggio che è vissuto accanto a questi movimenti religiosi, in una città dove questi movimenti religiosi erano particolarmente importanti, e cioè Ezzelino da Romano, se poi il mio interesse si è venuto via via allargando e ampliando al mondo degli Sveri, prima Federico II e poi inevitabilmente il nonno Federico I. Non vi parlo di altre mie attività di studioso perché non entrano nel nostro problema. Dirò subito che la personalità, e entriamo immediatamente nel nostro argomento, dirò subito che la personalità di Federico Barbarossa mi ha inquietato per vari motivi, soprattutto per uno che è proprio centrale per il nostro tema di oggi, vale a dire quello che potremmo chiamare il mito negativo di Federico Barbarossa. Per gli italiani, ve lo dico subito, è emerso anche un poco nella discussione di ieri, per gli italiani Federico Barbarossa è il cattivo. Diciamo pure, e non vorrei offendere il vostro sentimento nazionale, è il tedesco, nel quale termine si unisce, come noi avremo occasione di vedere, una certa serie di indicazioni e caratteristiche negative. Proprio per questo, e proprio perché naturalmente mentre leggevo storici e testi italiani in omaggio al principio del audiatur et altera pars, dovevo doverosamente occuparmi anche della storiografia tedesca, mi sono trovato di fronte al problema di una duplice immagine di Federico Barbarossa, di una immagine che potremmo dire era da una parte il rovescio dell'altra. Per la storiografia tedesca, diciamo come media opinione, l'imperatore Federico è l'imperatore che impone con energia la pace e la giustizia, i Landfrieden, impone i problemi dell'organizzazione dello Stato. Non è certo davvero il cattivo imperatore, il persecutore delle città, il persecutore dei cittadini di Milano o di Bergamo o degli altri comuni. È così nato il problema della formazione, dell'immagine di questo mito negativo. E un chiarimento alla formazione di questo mito negativo è venuto, e tengo a dirlo perché è per me lo studio più importante sull'argomento, è venuto da uno storico della letteratura, Mario Fubini, che era senz'altro ben più che uno storico della letteratura, ma uno storico, diremmo noi, senza aggettivi. In un convegno di cui accenneremo alla fine su Federico Barbarossa, tenuta ad Alessandria orè qualche anno, in una sua relazione, il professor Fubini illustrò come e perché si era formato il mito della Lega Lombarda, del Lombardische Bund, e quindi del nemico di questa Lega Lombarda, Federico Barbarossa. Devo dire che questo studio è così esauriente e così centrale che mi permetterà, al punto giusto, di essere relativamente rapido, rinviando in molte cose appunto a lui. Ma la mia, vorrei dire, sorpresa è cominciata quando, esaminando gli storici precedenti all'Ottocento, mi sono accorto che questo mito, come del resto aveva indicato appunto il professor Fubini, è un mito legato essenzialmente alla tradizione del Risorgimento. Ecco perché la mia relazione, ed è una spiegazione doverosa, non comincia con l'Ottocento, come ieri giustamente ha fatto il professor Appelt, ma va indietro, comincia con la prima vera grande storia di Milano, che come voi sapete è di età umanistica, ed è la storia di Milano di Bernardino Corio, recentemente ripubblicata nei classici della storiografia della casa editrice Utet di Torino. Opera importantissima sia dal punto di vista della metodologia storiografica dell'umanesimo, ma più ancora, e questo vale per tutta l'opera, per il fatto che è interamente costruita su fonti. Si potrebbe, con un gioco di matite colorate, si potrebbe veramente isolare il non molto che è proprio del Corio e quello che invece è traduzione delle fonti. Mi permetterete di ricordarvi che un maestro dei nostri studi storiografici, Luigi Simeoni, potette ricostruire i testi della seconda Lega Lombarda, la Lega Lombarda del tempo di Federico II, grazie alla traduzione dei testi di questa parte, di questa Lega, contenuta appunto nel Corio. Ora, se voi prendete la parte del Corio che riguarda la storia della Lega Lombarda, la vicenda di Federico Barbarossa e di Milano, vi accorgerete che vi è una esposizione estremamente lineare. Non solo, ma in sostanza non ostile a Federico Barbarossa. Badate, Corio è fierissimo di essere milanese. è fierissimo che uno dei suoi antenati ha preso parte alle trattative di quello che nel linguaggio nostro corrente chiamiamo la pace o la i negoziati di Montebello. Quindi profondamente milanese, ma non ostile a Federico Barbarossa. E se guardiamo le fonti, ci spiegheremo subito perché. Il racconto del Corio segue continuamente, traduce, diciamo meglio, la cronaca di Ottone e Acerbo Molena e del suo e del loro anonimo compilatore, che, come voi sapete, è una cronaca in sostanza non ostile, anzi, in molti casi, favorevole a Federico Barbarossa. E la cosa è tanto più notevole perché il Corio conosce altre cronache del tempo. Conosce la cronaca di Codagnello, conosce la cronaca anonima, quella attribuita, come voi sapete, a un certo Sire Raul, conosce soprattutto lo sviluppo successivo delle notizie sulla lotta tra Federico Barbarossa e Milano, raccolte da Galvano Fiamma. Quindi un giudizio estremamente, come dire, equilibrato su Federico Barbarossa. Si avverte che Federico Barbarossa era stato certamente molto severo con Milano. Di Milano si esaltano le glorie cittadine e vi troviamo ripetuta attraverso Galvano Fiamma la vicenda della compagnia del Carroccio e della compagnia della Morte, e vi compare il ben noto personaggio, ben noto soprattutto a noi italiani perché ripreso da Carducci, il ben noto personaggio di Alberto da Giussano. È questa una posizione che attraverso il Corio ed un altro storico a lui contemporaneo, il Calco, viene ripresa dalla storiografia successiva. Scusatemi se devo essere rapido, ma nel testo scritto aggiungerò altre cose, nel testo che speriamo pubblicare aggiungerò altre cose. Questa tradizione che il Corio ci rappresenta viene ripresa dalla storiografia successiva, dal Sigonio, e arriva praticamente immutata fino al Muratori, con il quale le cose cambieranno. Ma come ieri ci ricordava il professor Capitani, il problema di Federico Barbarossa non è soltanto il problema delle vicende, delle discese di Federico Barbarossa in Italia e delle sue lotte con i comuni, è nello stesso tempo anche un grosso problema di storia della Chiesa. E allora non ci meraviglieremo che con atteggiamento filoimperiale se ne parli da parte dei centuriatori di Magdeburgo. Ma, e qui viene un fatto estremamente importante, se ne parli e molto a lungo negli annales ecclesiastici di Baronio, dove confluiscono nella storiografia una serie di testi e soprattutto di documenti che il Baronio era riuscito a ricavare dagli archivi pontifici e da fonti coeve. Curiosamente, come la tradizione milanese ha avuto un suo andamento nella storia civile, rimanendo indipendente o quasi da quella religiosa, così dobbiamo dire che la tradizione impostata dal baronio resta praticamente autonoma rispetto a quella indicata dalla storiografia civile. Anche qui la grande svolta è rappresentata dal muratore, del quale permettete ad un italiano di dire che difficilmente si può trovare uno storico più galantuomo, più sereno nel suo giudizio e, aggiungo, più capace di trovare dovunque, come segugio che segue le orme dell'animale di cui va in caccia, di muratore. Mi permetto di dire, e non lo dico tanto per noi italiani quanto per i nostri colleghi ed amici tedeschi, ma non hanno nessun bisogno che io lo ricordi loro, il muratore dovete sentirlo come il punto di partenza obbligato di ogni cosa che riguardi la storia italiana. Se voi volete leggere, prima naturalmente delle discussioni e dei dibattiti critici dell'Ottocento, se voi volete leggere delle pagine equilibrate su Ottone di Frisinga, ebbene le troverete in muratore. E lo stesso dicasi di altre cronache del tempo, lo stesso dicasi di soprattutto della serie di indicazioni, di documenti, di discussioni che arricchiscono quella straordinaria enciclopedia, permettetemi questo termine anacronistico, di questa straordinaria raccolta di indicazioni, discussioni, problemi storici, istituzionali, religiosi, culturali, che sono le Antiquitates Italicae Medievi. Ma per i nostri problemi forse interessa di più quanto il muratore raccoglie e racconta negli Annali d'Italia, un'opera la cui importanza per la erudizione è difficilmente da sottovalutare, perché in quest'opera il muratore, nella piena maturità della sua intelligenza, della sua cultura e della sua preparazione, ha veramente raccolto quanto gli era possibile riunire insieme. Non solo, ma per la sua amicizia, per i rapporti di cultura che aveva con gli eruditi di tutta l'Europa, e per quanto riguarda la Germania va sottolineato soprattutto il suo rapporto di, come dire, corrispondente, potremmo dire di amico, con Leibniz, di cui recentemente, qualche anno fa, è stato posto in luce tutta l'importanza, vi renderete conto che veramente il muratore rappresenta nella storiografia italiana il punto centrale della discussione critica e storica sul Barbarossa. Ma attenzione, quando noi leggiamo queste pagine ci troveremo, se non mi inganna l'impressione che io ne ho ricevuto rileggendo, vi troveremo una, vorrei dire, imparziale, in qualche momento vorrei adoperare un aggettivo forse un po' cattivo nei riguardi del muratore, una impassibile narrazione degli eventi. Il muratore sente la lotta tra Federico Barbarossa, la Lega Lombarda, i comuni, le vicende che ne sono scaturite, come un grande quadro, con un grande quadro in cui non c'è una rappresentazione in bianco e nero, non c'è Federico Barbarossa cattivo e le città italiane buone, ma vi è viceversa il tentativo di capire storicamente che cosa è accaduto. Vi è, non metodologicamente espresso, ma vi è istintivamente, per virtù direi nativa di storico, quel desiderio sincero di sapere come sono andate le cose. Un desiderio di raccogliere tutte le fonti disponibili per renderci conto di quello che è accaduto e passato. Folmuratori, cioè, noi abbiamo nella storiografia italiana, per quello che a me sembra di poter dire, ma possiamo discuterne, noi abbiamo una rappresentazione equilibrata delle vicende. Certamente è il punto di vista di un italiano, certamente non nasconde le durezze, le umiliazioni, le asprezze di taluni atteggiamenti di Federico Barbarossa, ma non nasconde neanche che in fondo queste città italiane ribelli erano. Finora noi abbiamo parlato di personaggi noti. Ora è molti anni, mi capitò di trovare un libro, che è questo, nel quale curiosamente mi accorsi che avevamo la più importante, la più interessante trattazione settecentesca sui rapporti tra Federico Barbarossa e i comuni. Vi devo dichiarare con estrema onestà che di questo signore, vi darò poi le indicazioni esatte, che di questo signore vi posso dire che era un funzionario di un certo rilievo nella città di Verona, vi posso dire che ha una preparazione giuridica di primissimo ordine, vi posso dire che conosce stupendamente il Muratori, non per quello che mi è stato dato di rivedere e di controllare, non gli è sfuggito del Muratori nulla, né dei rerum italicarum scriptores, né delle antiquitates italiche medievi. Vi aggiungo che è perfettamente al corrente della letteratura straniera, al punto che alla fine della sua opera non solo dà i testi che allora erano disponibili relativi alla pace di Costanza e alle vicende circostanti, ma anche un indice, un glossarium, che è una curiosità che mi permetto di segnalarvi. Dunque, c'è prima l'opera, poi i monumenta Pacis Constantiae e poi infine un glossarium latino barbarum, veterum statutorum veronensium, quo quedam vocabula glossarii celeberrimi ducangi illustrantur et quedam ineo preterita exponentur. Quest'uomo è perfettamente al corrente della erudizione corrente e di quella anche meno comune nell'Europa della seconda metà del Settecento. L'autore di quest'opera è un Domenico Carlini o Carlino, De Pace Constantiae, è in latino naturalmente, ed è stato pubblicato a Verona il 1763, 663. E qui noi abbiamo una discussione sul rapporto tra i comuni e Federico Barbarossa, impostata giuridicamente in termini di storia giuridica, di storia delle istituzioni, si nota in che modo e fino a che punto erano ribelli questi comuni, ci sono le vicende della lotta tra Federico Barbarossa e i comuni, devo dirvi senza nessuna concessione al leggendario e al, diciamo così, romanzesco narrativo. È un racconto estremamente lineare, essenziale. Ai margini del libro trovate le indicazioni delle fonti, senza, diciamo così, nessuna concessione né al pittoresco né al caratteristico. Ci troviamo di fronte ad una opera che, attraverso la pace di Costanza e le vicende della lotta con Federico Barbarossa, vuole anche onestamente, e lo spieghiamo, è un libro veronese, di un veronese stampato a Verona, vuole anche porre in luce l'importanza della sua città nell'ambito di questo grande fenomeno che è stata la lotta tra Federico Barbarossa e i comuni. Come vi dicevo, se non mi inganna il giudizio, se non mi inganna il desiderio della cosa rara, devo dirvi che del personaggio non si parla nel dizionario biografico degli italiani, non si parla nell'onomasticon del Ferrari, non si parla in repertori, almeno quelli che io ho potuto vedere, vorrei dire parecchi, non tutti, perché nei repertori non si può mai dire di aver visto tutto, ma di questo personaggio non si parla. Mi auguro di poter quanto prima andare a Verona e, sulla base delle cariche che sembra aver ricoperto, cercare di raggiungere la, diciamo, identificazione del personaggio. Che facesse parte di una certa classe colta della città di Verona lo dimostra, e poi mi fermo subito su questo punto, lo dimostra la sua amicizia con un personaggio veronese più noto, il Carmagnolo. Tra il 1763, anno di quest'opera, e il primo 800, matura una delle personalità che più hanno avuto rilievo ed importanza nella evoluzione dell'immagine di Federico Barbarossa nelle città e nei riguardi della storiografia italiana. E mi date così anche l'occasione di dirvi che, mentre la storiografia tedesca per un verso e la storiografia italiana per un'altra sono stati sempre attentissimi alla personalità di Federico Barbarossa, bisogna anche dire che fuori di Germania e d'Italia è praticamente ignorato. Non è ignorato, ripeto, da questo interessante personaggio che non è né italiano né tedesco, ma svizzero, ed è il ben noto, come egli si amava chiamare, Sismondo dei Sismondi. Personaggio, voi sapete, estremamente complesso, perché se lo considerate da alcuni punti di vista è un illuminista attardato. La sua libertà, il suo concetto di libertà, fa pensare più alla libertà di un Rousseau che non al concetto liberale, poiché parlo con colleghi tedeschi presenti, di un von Humboldt, per intenderci, dei limiti dell'azione dello Stato. Eppure nello stesso momento in cui vi dico questo, che, ripeto, per taluni rispetti sembra un illuminista attardato, nel cogliere, nello studiare i problemi dell'Italia e, aggiungo, i problemi della storia europea, perché si è interessato di storia svizzera, si è interessato, come voi ben sapete, della storia della nazione francese in un'opera immensa che non so chi di noi avrà mai il coraggio di leggere. Io la vedo ogni tanto, ma non ho il coraggio di affrontarla. Un'opera, dunque, è un uomo il quale però, nel momento stesso in cui risente dell'illuminismo, risente anche, come del resto si accennava e accennava ieri il professor Appelt a proposito di questi personaggi intermedi della storiografia, risente del clima generale romantico. È vissuto a lungo in Italia, a Pescia, vicino in una cittadina vicino Lucca. È stato legatissimo a un certo mondo fiorentino e a un certo mondo lucchese, ha sentito viva la trasformazione che nella cultura italiana si veniva formando dopo la Restaurazione. Nasce così l'opera per cui in realtà è più celebre, che è La storia, anzi, per essere esatti, l'histoire des républiques italiennes du Moyen Âge, la storia delle repubbliche italiane del Medioevo, 7 volumi, veramente ce ne sono infinite edizioni e quindi con numerosi volumi. Quella che io ho sotto gli occhi è una delle prime ed è la quinta edizione di Bruxelles del 1838. L'opera è stata pubblicata poco prima. Dove troviamo due elementi che avranno una loro eccezionale importanza sulla storiografia successiva. Su quella storiografia, lo dico, lo ripeto ancora una volta, su cui mi limiterò a dire poco più che dei nomi, perché, ripeto, non vorrei ridire quello che molto bene fu detto anni or sono da Mario Civini. Se da una parte il Sismondi sente l'importanza del problema della libertà, nello stesso tempo la sua origine svizzera, quella tradizione culturale di amore verso la propria piccola patria, il cantone, che un nostro storico contemporaneo scomparso un anno fa circa, Werner Kaegi, ha descritto e indicato nelle sue Historische Meditationen, che ha proprio su questo punto pagine splendide, gli fece capire, ed è la chiave per quello che io sono in grado di dire, che spiega la simpatia con la quale il Sismondi si è accostato alle repubbliche italiane du Moyen Âge. Guardate, du Moyen Âge, perché per lui l'importante è, vorrei dire, l'avere il poter vedere attraverso la storia delle città italiane e delle repubbliche italiane quello che è accaduto quando la città perde il gusto e l'amore della libertà e cade nella tirannide dei signori e dei principi. Cioè Lavoro del Sismondi è una meditazione anche sul destino che poteva attendere la Svizzera se fosse caduta nelle discordie civili. Non dimenticate, ed è una cosa che curiosamente sfugge a chi studia questi problemi, almeno mi sembra che sfugga a chi studia questi problemi, non dimenticate che in questi stessi anni la Svizzera sta attraversando un momento drammatico, perché è il momento in cui si stanno scontrando fra loro e si prepara lo scontro negli anni, che poi sarà più grave negli anni successivi, tra cantoni cattolici e cantoni protestanti. Il più vero e grave pericolo, l'ultimo vero grave pericolo attraversato dalla Svizzera nella sua storia moderna. Quindi la storia delle città italiane è per Sismondi un momento di riflessione su quello che è il destino e il rischio della piccola patria. Ma la cosa più interessante, quella che rappresenta la novità del Sismondi rispetto al mondo stesso del Sismondi, è che nello studio delle repubbliche italiane si accorge della cosa più interessante, e cioè che queste repubbliche, nel momento stesso in cui erano delle piccole patrie, rappresentavano e vivevano un'esperienza diversa. Repubblique al plurale, ma italien, l'Italia, vorrei dire al singolare. Ed allora il Sismondi articola la sua storia in, vorrei dire, tre dati, tre momenti essenziali: la libertà della piccola patria in una nazione che non è uno Stato, ma che pur tuttavia unifica. È il motivo conduttore della histoire delle repubbliche italiane. Ed allora comincia a rilevarsi e a prendere evidenza e corpo il cattivo imperatore. In fondo, Federico Barbarossa è colui il quale ha, in un certo senso, turbato, deviato, distolto le repubbliche italiane dalla loro strada, le ha obbligate a riunirsi, ma non per un sentimento di fraternità, bensì per resistere ad un nemico comune. Questo nemico comune è ormai Federico Barbarossa. Sismondi, voi sapete, ha avuto una grande influenza in Italia. Devo dirvi, non solo in Italia. E ieri, con il professor Appelt, vedevamo insieme una singolare ed interessante opera pubblicata in Germania, a Königsberg, ed è la storia della la Geschichte des Lombarden Bundes und seines Kampfes mit Kaiser Friedrich I. di Johannes Voigt. Johannes Voigt, scusatemi, lo rammento un po' a me stesso e a tutti, è molto più noto per avere scritto un libro su Gregorio VII. Per quello lo conosciamo tutti. Curiosamente, gli italiani non hanno o hanno dimenticato questo libro. Perché l'ho ricordato? Perché, curiosamente, questo libro, più del Sismondi, a mio giudizio, ha diciamo così, creato la contrapposizione tra il, diciamo, il sovrano che opprime e il Lombardenbund che resiste a questa oppressione. Perché le città hanno la libertà, l'imperatore vuole togliere questa libertà. Curiosamente, il Sismondi, ma più ancora il Voigt, ha, diciamo così, impressionato quel singolare personaggio che per varie ragioni, tra cui anche la inaccessibilità dei documenti che lo riguardano, difesi con le unghie e con i denti dai monaci di Montecassino, è praticamente finora non del tutto comprensibile e studiabile, vale a dire Luigi Tosti come impostazione di base nasce più che dal Sismondi, dal Voigt, che del resto onestamente cita. E del Voigt vive soprattutto l'atmosfera di difesa della libertà, di difesa dell'indipendenza, di difesa della nazione, unendo, come vi dicevo, il Sismondi e il Voigt. Ma il Sismondi, scusatemi se per un momento mi allontano dalla storia, il Sismondi era stato letto da molti ed era stato letto naturalmente con una particolare attenzione visuale, ed è l'attenzione visuale del proto-risorgimento o dell'immediato tempo successivo alla restaurazione. Eletto dagli uomini che poi hanno operato il risorgimento. E viene naturalmente letto e, aggiungo, esasperato. Questo imperatore che opprime le libere città della legate fraternamente in una lega, che sono oppresse dall'imperatore, sono anche sentite come uno splendido tema di poesia. E, ripeto, mi riferisco in questo al Fubini, in questo tema di poesia non dobbiamo e non possiamo trascurare quello che è anche su un piano artistico, su un piano lirico, la cosa più bella, che sono le fantasie di Giovanni Verrocchio, dove i miti che intanto sono maturati sotto la spinta del Sismondi, nel ricordo di tradizioni locali e nella esigenza della lirica patriottica, sono emersi e sono naturalmente il giuramento di Pontida, sono la battaglia di Legnano, sono la pace di Costanza, sono cioè i miti che animano il risorgimento italiano tra il 30 e il 48. Veramente qualche dubbio però era cominciato. Ed è curioso che di questo dubbio va dato merito a un personaggio che non possiamo chiamare minore del Risorgimento, ma che d'altra parte non è certamente tra i meno importanti. Voi lo conoscete soprattutto come uomo politico. Gli italiani una volta leggevano quasi d'obbligo i suoi due romanzi storici, Lettere Fiera Mosca e Il Niccolò dei Lapi, si tratta di Massimo D'Azeglio. Massimo D'Azeglio era stato, diciamo così, stimolato da Cesare Balbo da una parte e da suoi amici milanesi dall'altra di scrivere un romanzo storico sulla Lega Lombarda. E noi abbiamo, non l'ho qui con me, ma si trova facilmente, in due edizioni criticamente valide, l'una di Marco De Rubris e l'altra di Alberto Maria Ghisalberti, il D'Azeglio, sotto la suggestione di questi amici, prepara un romanzo sulla Lega Lombarda, intitolato proprio La Lega Lombarda, e questo romanzo, e di questo romanzo scrive 7 capitoli che sono giunti fino a noi. Ma la caratteristica di Massimo D'Azeglio era di essere un galantuomo, e aggiungo un moderato. Non solo, essendo galantuomo, comincia a studiare, e noi abbiamo nella sua corrispondenza tutto l'itinerario dei libri che legge, dei consigli che chiede e delle domande che pone. E a un certo momento si accorge di una cosa, che in fondo, primo, non era affatto vero che queste città italiane fossero fraternamente unite contro il Barbarossa, ma Pavia non aveva mai voluto sapere di schierarsi contro il Barbarossa. Lodi era stata obbligata ad aderire alla Lega. Cremona, appena può, ne esce. E allora, dov'era questa fraternità? Non solo, ma più studia e più si accorge che le cose non erano come il mito rappresentava. Il romanzo non è mai stato concluso, non è stato mai finito. Non solo, ma proprio nel 48 noi abbiamo una letterina del D'Azeglio che ad un amico che gli chiede, ma insomma, quel romanzo che fine ha fatto? In cui, da quel gran galantuomo che era, dice chiaro e tondo: ma io mi sono accorto che questi italiani litigavano fra di loro, che si distruggevano i campi e cittadini e uomini fra di loro. Ma che razza di fraternità italiana volete che fosse quella? Ma io ho dovuto smetterla. Cioè, si passa dal mito alla presa di coscienza del mito stesso. Chi ne ha avuto piena consapevolezza? E chi si è reso conto che bisognava trovare un'altra strada è un altro personaggio sfortunato, perché non compare neanche nella storia della storiografia italiana nel secolo XIX del Croce. Ed è l'autore di un libro che, devo dire, è ancora oggi valido per molte ragioni, adesso ve le spiegherò, ed è, non rimanete sbalorditi, spiegherò, tradurremo poi bene il titolo, La storia diplomatica della Lega Lombarda di Cesare Vignati. Un libro di importanza, a mio avviso, eccezionale anche dal punto di vista metodologico, perché segna l'abbandono della storiografia elogiativa, della storiografia per esaltazione, della storiografia parziale, per una storiografia diplomatica, dove la parola diplomatica va intesa nel senso medievistico della Urkundlich, della storia fondata sui diplomi. Quindi storia diplomatica non nel senso di storia dei rapporti politici, della diplomazia, ma storia fondata sui diplomi. Il Vignati, infatti, è colui il quale scoprì tutta la documentazione relativa alla Lega Lombarda, nei documenti lodigiani, li pubblicò e in parte, in gran parte, li ha utilizzati in quest'opera, pubblicando, sia pure con i metodi in uso nel 1866, pubblicò questi documenti. Mi dispiace di dover dire, cioè mi fa piacere di dirlo ad amici tedeschi, mi dispiace come italiano di dover dire che gli italiani l'hanno adoperato, ma lo hanno apprezzato poco. Chi in realtà ne capì tutto il valore, tanto da studiarlo minutamente e scriverci su un saggio splendido, fu quel Ficker di cui abbiamo ieri giustamente sentito valutare tutta l'importanza, che ha scritto un grosso saggio sulla un grosso Aufsatz sulla Lega Lombarda, proprio giovandosi dei lavori del Vignati e ampliando e, diciamo così, arricchendo soprattutto con la sua sovrana intelligenza storica. Con l'opera del Vignati noi abbiamo l'inizio dell'abbandono, l'inizio della fine, il principio della fine del mito del Barbarossa. Badate però che se la storiografia e soprattutto l'erudizione lentamente si è avviata verso un abbandono del mito risorgimentale del Barbarossa bieco tiranno tedesco, ci sarebbe da ricordare qui, se ne parlava con la professoressa Fasoli, ci sarebbe da ricordare qui come e quanto il mito del Barbarossa abbia influito su un certo atteggiamento del risorgimento italiano verso i tedeschi, perché, come voi sapete, in Italia c'erano gli austriaci, non i tedeschi, ma il risorgimento ha inteso invece, proprio per l'influenza del mito del Barbarossa, che tutti erano tedeschi, senza distinguere gli uni e gli altri. Comunque, l'opera del Vignati segna l'inizio degli studi eruditi, non più di ispirazione risorgimentale, anche se questa ispirazione risorgimentale qua e là riaffiora, continua, ma abbiamo l'inizio degli studi scientifici eruditi sul Barbarossa. Ma rapidissimamente, e senza volermi prolungare più che oltre, nella stessa età del risorgimento, accanto e a fianco all'opera del Tosti, in cui, come vi ho detto, si rappresenta l'Italia unita con alla testa il pontefice contro l'oppressore tedesco, secondo un mito neoguelfo, tra parentesi, nello stesso momento vi era un gruppo di studiosi e di uomini del risorgimento, i quali viceversa, partendo da una concezione dello Stato come realtà laica, come realtà non necessariamente cattolica e federalistica, ma invece politica, laica e unitaria, sostenevano che in fondo Federico Barbarossa esercitava un suo diritto sovrano che Federico Barbarossa avrebbe, non diversamente dal Papa, potuto realizzare una unità, una unione dell'Italia diversa, ma non per questo meno politicamente valida. Non mi estendo su questo punto ben noto, sono i cosiddetti neo-ghibellini. L'erudizione avrebbe dovuto fare piazza pulita dei miti, ma voi sapete che i miti sono duri a morire, soprattutto quando c'è dietro la poesia. E devo dirvi, nella perpetuazione del mito di Barbarossa cattivo, di Barbarossa oppressore, della battaglia di Legnano, della battaglia delle città unite contro l'oppressore, l'importanza del Bercher è stata eccezionale, per cui è rimasto nella tradizione culturale italiana la tendenza a sentire la vicenda del Barbarossa come qualche cosa che in ultima analisi tende a opprimere la nazione italiana, tende a distruggere quello che si andava preparando di un paese libero, di un paese che avrebbe formato la sua nazione. Devo dirvi che dopo i due volumi sui comuni, nella storia d'Italia per una società di professori, i due volumi non sono di straordinario rilievo, sono dei racconti in termini cronologici e in uno sviluppo di vicende particolari. L'Italia ha avuto studi particolari sui problemi relativi alla storia di Lodi, continuando l'opera del Vignati, o alla storia di Milano, continuando la storia di Milano. Ma in sostanza il Barbarossa è rimasto un po' prigioniero del suo mito. Bisogna dire che tra le due guerre si è venuta lentamente creando una nuova posizione storiografica. Una nuova posizione storiografica che a un tempo si rivolgeva verso gli uomini e le vicende intorno a Federico Barbarossa e dall'altra ai politici e ai grandi politici intorno al Barbarossa e ai grandi problemi politici intorno al Barbarossa. Mi riferisco in questo allo studio, dovremmo dire, anzi, diciamo meglio, al volume su Ottone di Frisinga del professor Paolo Brezzi, qui presente, e agli studi sugli Svevi di Raffaello Morghen, il quale iniziava il suo volume sulla crisi, sul tramonto della potenza sveva in Italia, con un grosso capitolo in cui riprendeva e discuteva i problemi della italienische Kaiserpolitik. Sono stati per vari aspetti opere che hanno rinnovato o riposto in termini diversi, con un completo abbandono, con una completa eliminazione dei miti relativamente a Federico Barbarossa. E il Brezzi ha continuato studiando i personaggi e le vicende intorno a Federico Barbarossa e ha poi continuato in questa serie di lavori, come il Morghen è passato poi a studiare soprattutto Federico II e gli ultimi Svevi. Mi riferisco in particolare a Manfredi. Siamo alle ultime battute del mio discorso. terzo protagonista in questa storiografia italiana relativa al Barbarossa è la professoressa Fasoli, che dallo studio soprattutto del fenomeno cittadino come elemento concreto di vita, come elemento nucleo essenziale, piccola patria che si collega con le altre per ragioni, motivi e fatti specifici, i miti sono scomparsi anche in questo caso, ha in alcuni suoi contributi, mi riferisco adesso in particolare perché li abbiamo vissuti insieme ai due studi pubblicati nel volume sugli Studien und dem 12. Jahrhundert della serie delle Tagungen della Reichenau. Noi abbiamo, ripeto, ormai in Italia, per quello che riguarda la storia e gli storici, una situazione del tutto ormai nuova, del tutto lontana dai miti. Diciamo che in questo ambito un personaggio, e lo ricordo appena rapidamente, un personaggio è rimasto al centro di una attenzione che non è soltanto una attenzione di storia politica, ma anche di storia religiosa, ed è Arnaldo da Brescia. Arnaldo da Brescia, sul quale la storiografia italiana ha dato dei risultati rilevanti, dal vecchio libro del De Castro su Arnaldo da Brescia e i movimenti religiosi in Roma, via via agli studi che poi sono stati continuati dal De Stefano, sempre su Arnaldo da Brescia, ma come personalità religiosa, per poi giungere all'ultimo che se n'è occupato con una visuale per taluni rispetti diversa e nuova, e cioè l'Arnaldo da Brescia di Arsenio Flugoni, la cui importanza metodologica io vorrei qui sottolineare perché in un certo senso aiuterà il resto del nostro lavoro. Il Flugoni ha posto in rilievo che il secolo XII, per la complessità dei problemi, degli eventi, degli atteggiamenti mentali che ha vissuto, non ci dà del proprio tempo, della propria realtà, una visione unitaria, ma sempre molteplice. Ogni personaggio, qui adesso intervengo io, ma so di poter parlare a nome di un amico carissimo, ogni personaggio del XII secolo è, come direbbe il nostro Pirandello, uno e molteplice. Come Arnaldo da Brescia, che è a Brescia agitatore e riformatore religioso, a Parigi studioso, studente, studioso, maestro e scolaro di Abelardo, che è nello stesso tempo penitente e cristiano a Zurigo, che ritorna a Roma ancora penitente per ritornare invece agitatore e predicatore religioso e politico insieme. Perché, e qui è il punto, i personaggi del secolo XII tendono ad offrire un volto diverso secondo le angolazioni di cui noi disponiamo. L'Arnaldo da Brescia delle fonti bresciane non è l'Arnaldo da Brescia che ci presenta Bernardo di Clairvaux, che ci presenta John of Salisbury, che ci presenta Gero di Reichersberg, che ci presenta il cosiddetto anonimo lombardo. è un personaggio molteplice, secondo gli angoli di visuale. È un punto che dovremo tenere presente nei nostri giorni, perché già ieri, studiando proprio i problemi della politica religiosa e dello scisma, attraverso le indicazioni che ci venivano date dal professor Capitani circa la discussione e i problemi nati intorno allo scisma, noi abbiamo già visto come molteplici fossero le facce attraverso le quali ci vengono indicate e profilate le realtà e le personalità dei due protagonisti, Alessandro III e Federico Barbarossa, anche e persino in quegli stessi che sono loro favorevoli. Vi ricordate la discussione relativa soprattutto a Gero di Reichelsberg o al cosiddetto Raevino. Prima di chiudere, desidero ricordare, anche per l'importanza dei contributi che non posso naturalmente discutere particolarmente, desidero ricordare che vi sono stati due importanti congressi, l'uno ad Alessandria in ricordo della fondazione della Alessandria Cesarea e l'altro a Bergamo. L'uno per la fondazione di Alessandria, l'altro per la formazione della Lega Lombarda. Ma qui direi che vi offenderei se a studiosi quali siamo noi dovessi ricordarvi delle opere che sono state un po', per varie ragioni e a vari titoli, nelle mani di tutti. Se dovessimo, come sto facendo, concludere, concluderei dicendo che dinanzi alla storiografia in Italia su Federico II ci troviamo di fronte ad una realtà che ci si è rivelata estremamente complessa da una parte e dall'altra, straordinariamente legata ed intrecciata con la storia politica e culturale d'Italia. La conclusione che mi sembra doverne ricavare come ultima di tutte è questa. Federico Barbarossa, dunque, non è un personaggio episodico della storia italiana, né, piaccia o non piaccia a noi, piaccia o non piaccia a chi ci sia, è un personaggio centrale di questa storia, ne è una parte tanto ineliminabile che non è soltanto una personalità della storia, ma è un personaggio che anche in Italia, in motivi, se voi volete, perfettamente contrari a quelli tedeschi e in forme perfettamente diverse da quelle tedesche, è un personaggio su cui, come in Germania, si è steso anche il mito e la leggenda. È nostro compito in questi giorni, proprio perché abbiamo detto che si tratta di personaggi con molti volti, è nostro compito in questi giorni, attraverso le nostre lezioni e le nostre discussioni, di cercare il più possibile di attingere, di raggiungere il momento più profondo, più caratteristico, più essenziale di questa personalità, che dunque è tutt'altro che semplice e facile. Grazie. Professor Manzelli, danke für seine Ausführungen und stehe jetzt vor der schwierigen Frage, soll man versuchen, eine deutsche Zusammenfassung zu geben, soll Professor Manzelli noch einmal das, was er klar in Italienisch vorgetragen hat, noch einmal in deutschen Worten wiedergeben? Wollen Sie das selbst machen oder soll ich das versuchen? bei der Belohnung auf wenn Sie das machen, wäre ich Ihnen dankbar. Anders kann ich versuchen. Aber ja, ich werde es versuchen. Und Studium, Korrektur, wenn es nicht so gelingt, wie es notwendig wäre. Das ist der Ausgangspunkt für dieses Referat ist die bekannte Feststellung, dass in Italien die Persönlichkeit Barbarossas in der allgemeinen Meinung einen sehr schlechten Ruf hat. Barbarossa wird als der Deutsche schlechthin angesehen, wobei der Deutsche sicherlich nicht etwas Positives ist, sondern der negative Beigeschmack dominiert. Selbstverständlich oder naheliegend ist die Tatsache, dass es in der deutschen Geschichtsschreibung eben die Vorzeichen gerade anders gesetzt sind. Die Frage, die sich aufdrängt, woher kommt es zu diesem Gegensatz, woher kommt der negative Mythos Friedrich Barbarossas in Italien? Dabei ergibt sich die überraschende Feststellung, dass dieser Mythos durchaus nicht gleichzeitig ist, dass es eine Reihe von Historiografen gibt, die Barbarossa positiv oder zumindest neutral gegenüberstehen. Und diese Entwicklung zu verfolgen im Laufe der Jahrhunderte war der Sinn dieses Referates. Professor Manzelli hat besonders hervorgehoben, den Mailänder Historiografen Corio, der also noch am Ende des deutschen Mittelalters und der deutschen Nomenklatur vielleicht zu sprechen steht, eine Geschichte Mailands verfasst hat und dabei, obwohl Mailänder die Position Barbarossas durchaus nicht so negativ gesehen hat, das hängt sicherlich damit zusammen, dass Corio seine Grundlage ganz wörtlich oder sehr weitgehend wörtlich beibehält, dass er sich sehr stark auf Quellen stützt und die Quellen eben, etwa Otto von Freising oder auch Morena, eine doch eher kaiserfreundliche oder zumindest neutrale Position beziehen. Das ist deshalb bemerkenswert, weil es Corio noch immerhin möglich gewesen wäre, etwa spätere Chroniken, die nicht mehr so kaiserfreundlich eingestellt waren, mit zu benutzen, was er offensichtlich nicht im gleichen Maße getan hat. Diese neutrale oder fast positive Stellungnahme gegenüber Barbarossa findet eine Fortsetzung auch bei anderen Geschichtsschreibern der frühen Neuzeit in Italien, etwa genannt wurde Sigonio. Eine Änderung tritt dann, oder eine parallele Entwicklung ist zu bemerken, etwa in einem anderen Vorzeichen, in den Annales Ecclesiastici des Baronius, der ebenfalls eine neutrale Bewertung einnimmt. Eine gewisse Änderung tritt dann ein mit Muratori. Muratori, der in ganz staunenswerter Weise, in überragender Weise eine Unzahl von Quellen gesammelt hat, die verarbeitet hat und darauf eine sehr breit geschilderte Darstellung aufbaut, der auch negative Aspekte sicherlich dargebracht werden. Weiter hat Professor Manzelli hervorgehoben, einen nahezu vergessenen Historiographen des 18. Jahrhunderts, den Veroneser Domenico Carlini, der ein Buch über De Vage Constantie, Verona 1763, herausgebracht hat, der als Jurist ebenfalls noch ohne legendenhafte Ausschmückung eine Darstellung der Beziehungen oder des Konfliktes zwischen Friedrich Barbarossa und den barbarischen Städten geboten hat. Auch hier findet sich also nichts von ihrem Mythos des Verfolgers der städtischen Freiheiten, der dann später eine so große Rolle spielt. Die wesentliche Änderung tritt dann ein, nicht durch einen italienischen Forscher oder einen deutschen, sondern durch den Schweizer Sismondi, der eine Geschichte der italienischen Republiken des Mittelalters verfasst hat, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts erschienen sind. Dabei macht Manzelli aufmerksam auf die Stellung des Autors als Schweizer, der eine gewisse oder sehr starke Vorliebe hat für die Betonung der Freiheit in einem engen, überschaubaren Rahmen und diese begrenzte Freiheit dann nicht in Verbindung tritt mit einer Nationaleinheit. Diese freie, kleine, überschaubare Freiheit soll in einer nationalen Einheit ihr Leben führen können. Dieser Gesichtspunkt hängt natürlich zusammen mit der aktuellen Schweizer Geschichte des 19. Jahrhunderts. Das Buch oder die Bücher, das Werk von Sismondi hat in Italien großen Anklang gefunden und steht nicht allein, aber auch am Anfang des frührisorgimentalen Bemühens, des Mythos oder den Mythos Barbarossas in einer wissenschaftlichen Einkleidung dann zu bieten. Etwas Ähnliches kann man sagen vom deutschen Buch von Johannes Voigt, von dem ja gestern schon die Rede gewesen ist, das ebenfalls in der gleichen Zeit, in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts entstanden ist und das sich ebenfalls mit Geschichte des Lombardenbundes und seines Kampfes mit Kaiser Friedrich Barbarossa beschäftigt. Also Sismondi und Voigt, zwei nicht italienische Werke, stehen quasi am Beginn dieser Mythos des negativen Mythos von Barbarossa. Es hat dann in der Zeit des Risorgimento durchaus auch Bemühungen gegeben, den Mythos wissenschaftlich zu ergründen. Als Beispiel wurde genannt Massimiliano D'Azeglio, der begonnen hat, einen historischen Roman über die Lega Lombarda zu schreiben und bei seinen Forschungen, die er zu diesem Roman unternommen hat, die Entdeckung machte, dass der Mythos ja nicht in dieser Weise stimmt. Es stimmt nicht die brüderliche Vereinigung der italienischen Kommunen gegen einen sie unterdrückenden Herrscher. Es gibt unter dieser brüderlichen Vereinigung große Ausnahmen von solchen, die nicht wollten, aber dazu gezwungen wurden, und solchen, die überhaupt nicht mitgetan haben. Also gerade bei Azeglio kann man das nachvollziehen, dass der Roman eben unvollendet geblieben ist und die Forschungen ihn dazu gebracht haben, das Ganze liegen zu lassen. Ein neuer Aufschwung der strengen Forschung über Barbarossa, das Bild Barbarossas dann in Italien, zeichnet sich ab mit dem Buch von Cesare Vigliati, La Storia Diplomatica della Lega Lombarda, das in den 60er Jahren, 1867, erschienen ist, wo erstmals in wissenschaftlicher Form, das Storia Diplomatica heißt in unserem medievistischen Sinne, die diplomatische Geschichte, nicht im Sinne der Diplomatie, sondern im Sinne der Diplomatik, dass hier auf wissenschaftlicher Basis alle Aktenstücke zusammengetragen sind, nicht sehr stark kommentiert, aber jedenfalls abgedruckt werden, die sich auf die Lombardische Liga beziehen. Und es ist nicht der Zufall sicher, dass dieses Buch von Vigliati in Italien kaum ein Echo ausgelöst hat, während es in Deutschland vor allem von Ficker rezipiert und ausführlich kommentiert worden ist. Mit Vigliati beginnt eigentlich das Ende des Mythos Friedrich Barbarossas in Italien, oder es sollte beginnen, glaube ich, müsste man besser sagen, denn der Mythos lebt natürlich weiter, er wird gepflegt von patriotischen Kreisen im Sinne des Risorgimento. In der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser Frage tritt dann die Schule, nicht die Schule von Vigliati, kann man nicht sagen, aber tritt die exakte Beschäftigung mit dem Problem immer mehr in den Vordergrund und es sind dann Namen genannt worden, die uns ja alle vertraut sind, etwa von Prezi oder Raffaello Morgan bis hin zu den letzten intensiven Beschäftigungen der italienischen Historiker mit Friedrich Barbarossa und nicht nur unter dem Gesichtspunkt seiner Auseinandersetzung mit den Städten, sondern auch andere Gesichtspunkte sind dabei behandelt worden, etwa Otto von Freising oder eine Persönlichkeit, die mit dieser Zeit oder mit die, auch mit Barbarossa im engsten Zusammenhang stehen, alles, was mit Arnold von Brescher zusammenhängt. Am Ende hat Professor Manzelli darauf hingewiesen, dass es zwei große Kongresse gegeben hat, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben. Einen in Alessandria, den anderen in Bergamo. Der eine anlässlich der Feier zur Gründung von Alessandria, der andere anlässlich der Gründung der Lega Lombarda. Die abschließende Feststellung von Manzelli war, dass Friedrich Barbarossa in der Geschichte Italiens keineswegs eine episodenhafte Figur ist, die also kommt, so wie die landläufige Vorstellung ist, fünf oder sechs Mal über die Alpen kommt und hier Unruhe stiftet und die Städte unterdrückt, die städtische Freiheit unterdrückt, sondern er ist eine zentrale Figur in der Geschichte Italiens, in der sich doch die italienische Politik nicht nur des 12. Jahrhunderts, sondern auch vieler späterer Jahrhunderte widerspiegelt, bis in das 19. Jahrhundert hinauf, auch mit den beiden kennzeichnenden Worten des Neogelfismus oder Neogibelinismus, ist auch noch einmal die Problematik Barbarossas im 12. Jahrhundert angesprochen. Io ringrazio il professor Hildmann per la sua nitidissimo riassunto e credo che abbiamo tutto il diritto di prenderti un po' di riposo. Ci rivediamo, ora sono le 11 meno 5, ci rivediamo esattamente alle 11 e un quarto. Siamo d'accordo? Viene fuori in maniera indubbia che vi sono le città milanesi, Milano che conquista la Lombardia, gli imperatori che vengono, ma poi arriva anche l'Italia meridionale che si allea con i comuni, con la Lega Lombarda e formano l'unità contro il tedesco. Ich habe das bemerkt am Anfang des Buches und dann in der Erzählung der Ereignissen zwischen dem Lombardenbund und Friedrich Barbarossa hat Sismondi das unterstrichen. Das heißt, dass Italien, das Italien stricto sensu sind die Städte des Mittel- und Norditaliens. Aber in der Erzählung erzählt das, dass Italien eine Einheit ist, eine Einheit, die in der Gang der Ereignisse, in dem Gang des Kriegeserzählung und so weiter, immer mehr eine Einheit ist, in der Königtum Siziliens und die freie Kommunen ein gemeinsamer Zusammenhang formen und daher eine wirkliche und wirkende Einheit sind. Das heißt, er kann ganz genau das Italien im Mittelalter, im Hochmittelalter, wie sagen die unsere deutschen Kollegen, im Hochmittelalter Italien zwei verschiedene politische Realitäten ist. Aber in der Tat, im Gang der Ereignisse, haben wir die Realität, die Einheit in in der Tat und nicht mehr als politische Realität. In un certo senso, allora, paradossale, una anticipazione della tesi di un libro molto recente, anche abbastanza fortunato, di Two Italies. Ah, certo. In un certo senso. Ma... ecco, questo per tutto l'arco di tempo considerato, e non solo per l'occasione del Barbarossa, perché allora lì è strumentale l'unità. Tutti sono visti uniti contro il Barbarossa, cioè contro il cattivo, l'oppressore, eccetera. Sì, ma... quella non è una unità se non occasionale, mitica. Ecco, ma l'importante è, diciamo così, l'aspetto in un certo senso difficile e un po', vorrei dire, ingannatore del Sismondi, ambiguo del Sismondi, è che diciamo così, le due Italie, che lui conosce benissimo come due Italie, vengono prospettate come indissolubilmente unite. Mi spiego, ma direi anche storicamente indivisibili, e quindi, che è poi il, diciamo così, il motivo, a mio avviso, politico del libro del Sismondi, è che esiste una nazione senza uno Stato. E infatti, lui dice, adesso mi scuserete, non ho potuto portare 7 volumi, sono così, ma lui dice chiaro e tondo che la storia delle repubbliche italiane esiste fino a che esiste una storia italiana dell'Italia. Lui dice l'incoronazione di Carlo V, lo deve dire, se non mi sbaglio, anche qui nella prefazione, che la storia di Carlo V, ecco, il 24 marzo 1530 Carlo V fu coronato a Bologna, e l'8 agosto dello stesso anno, state attenti, Firenze aprì le porte all'esercito di questo imperatore che abrogò la sua costituzione. Da allora l'Italia cessò di essere indipendente, i suoi popoli non esercitarono più influenza sul resto d'Europa, non ebbero più parte al loro proprio governo. Rinunziando alle virtù pubbliche, il moralismo del Sismondi ancora una volta, rinunziando la svizzerità, senza polemica, ma è così, rinunziando alle virtù pubbliche che loro erano interdette, che loro erano proibite, e si persero successivamente l'energia di carattere che le aveva a lungo distinte, l'attività ingegnosa che le aveva arricchite con le attività manifatturiere e il commercio, l'attitudine alle scienze che li aveva resi illustri per brillanti scoperte, e infine il gusto delicato delle arti, che sopravvivendo a tutte le altre facoltà aveva dopo di quelle rallentato qualche tempo ancora la loro miseria. I nostri 6 ultimi capitoli, che comprendono la storia di 3 secoli, tracciano il triste quadro di questa decadenza, inevitabile effetto della schiavitù d'Italia. Guardate che in queste parole, in queste 20 righe, vi è, e credo di non esagerare, ma possiamo discuterlo, vi è un modulo interpretativo della storia d'Italia della quale ancora oggi stentiamo a liberarci. Questo vi dimostra l'influenza enorme esercitata dal Sismondi. Non dimentichiamo un fatto ancora più importante, che su una 60ina di righe del Sismondi in cui parlava dell'influenza negativa della Chiesa Cattolica sulla morale privata e pubblica degli italiani, Manzoni ritenne opportuno rispondere con un intero libro della morale cattolica. Questo vi dimostra, lo dico per noi, ma specialmente per i nostri colleghi tedeschi che naturalmente necessariamente sono meno interessati di noi al Sismondi, questo serve a chiarire l'importanza eccezionale di questa opera. Importanza eccezionale anche per il Barbarossa. Mi scuserete, io non potevo qui mettermi a leggere pagine su pagine, ma sulle crudeltà del Barbarossa, sulla ferocia con la quale opera contro i comuni, sulla tirannia che i funzionari del Barbarossa hanno esercitato in Italia. Qui ce n'è quanto se ne vuole. Mi spiego. Quindi ringrazio il professor Capitani di avermi dato l'occasione di insistere sulla importanza del Barbarossa e del Sismondi. Ich habe das bemerkt, dass das Werk von Sismondi eine große Bedeutung über die italienische Kultur und nicht nur über die italienische Historiographie geübt hat. Daher ist das Werk von Sismondi, Histoire der Republik Italienne au Moyen-Âge, ein höchst bedeutendes Werk, die italienische Historiographie des ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von großer Bedeutung ist. Prego. Parli un po' più forte perché non ho dei buoni. Ecco, brava, mi dica. Dimentico. Sì, molte edizioni. Sì, sì. Ma mi pare invece molto più valido. Nel suo carico, usiamo tantissime fonti, quello che ti interessa è la cronaca di Sileau, che è la base della storia del calco insieme a Morena e ad altri. Sì. E quindi l'atteggiamento verso la proposta di veramente diverso nel calco. Perché il calco? Ha usato questa cronaca che non il corio, il quale va utilizzata, no? Io credo che il motivo sia questo, che il calco ha scritto durante la dominazione francese, invece il corio durante il dominio francese. Sì. E la cronaca di Sidi Raoul, credo che durante l'epoca di dominazione francese non potesse essere molto considerata, perché dava, prende in considerazione quest'epoca, un'idea particolarmente negativa riguardo alla formazione delle leggende filo-discontee, no? Che utilizzano. E ecco, credo proprio che sia questo. Comunque, credo che il calco vada considerato come primo, una prima fonte a questo riguardo, credo. La signorina la Fräulein hat mir das unterstrichen, dass neben Corio ein anderer Mailänder Historiker sehr wichtig ist. Das heißt Tristano Calco, der auf Lateinisch eine Geschichte von Mailand geschrieben hat. Und sie hat mir bemerkt, das sehr wichtig ist, auch weil eine Chronik benutzt hat, die Chronik von Sire Raoul, den Corio indirekt Canterov, Corio Cante, Sileraul, Durco Daniello. Da questo è il problema del Durco Daniello, cioè il caso di Milano, sia la morte del Durco Daniello, che è quella di Sileraul praticamente rimaneggiata, sia quella di Sileraul. Ecco. Quindi, und natürlich, Fräulein hat mir gesagt, dass es wäre am besten, dass auch Calco in Betracht gekommen wäre. Adesso vi dirò subito, signorine, che non potendo parlare troppo degli storici di Milano, perché allora devo cospargermi il capo di cenere, perché non ho parlato di Verri, non ho parlato di Giulini e non ho parlato neanche, orrore, dell'ultima storia di Milano. Vi dirò subito che è stata una esclusione deliberata. Io non potevo parlare di tutto. Perché ho preferito il corio al calco? Non solo perché, come lei giustamente ha rilevato, il corio è più accessibile del calco, ma per una ragione, che il corio è, in un certo senso, se non mi sbaglio, ma lei mi può correggere perché vedo che ha conoscenza più, diciamo, intensa di me, il corio è precedente. Di poco, ma precedente, sono praticamente un contemporaneo vecchio rispetto a un contemporaneo giovane. Ma anche perché, sempre che io adesso non sbagli, ho l'impressione che il calco non sia poi profondamente, quanto all'essenza dei problemi, profondamente diverso per quello che era il mio punto di vista, cioè il dire che la storiografia anche milanese del primo, del 400, del tardo 400 e del primo 500 è una storiografia che nei riguardi di Federico Barbarossa è relativamente parlando, diciamo, neutra, più favorevole il corio, e qui ha ragione lei, perché risente di più di Morena che non del Codagnello o di Sileraul. E il problema però indulge alla leggenda e alla tradizione di Alberto da Giussano, eccetera, eccetera. Non possiamo qui, ma avrei piacere poi di parlarne con lei, non possiamo qui affrontare un grosso problema, e cioè perché Corio, che conosce il Liber Tristitiae et Doloris, cioè praticamente Sileraul, anzi arricchito, ampliato, reso retoricamente e quindi umanisticamente più valido, abbia in sostanza accettato i Morena, la cronaca di Morena, e non tanto il racconto così triste e così drammatico di Codagnello e in parte di Galviano, della Galvano Fiamma. Ecco. Ma qui, mi scusi signorina, ci allontaniamo un po' troppo dal nostro problema. No, ma ich möchte das bemerken. Wir kennen natürlich nicht über diese zwei Historiker von Mailand in den Kleinigkeiten hineintreten. Es wäre zu lang und für unseren Zweck nicht nötig. Aber ich möchte das sagen, ganz klar, neben Corio haben wir einen zweiten Historiker, das heißt Tristano Calco, der auch eine wichtige Geschichte von Mailand geschrieben hat. Aber ich meine, signorina, credo che siamo d'accordo che quanto al giudizio del Barbarossa, le due opere, aber über Barbarossa sind diese zwei Geschichte überall im Allgemeinen derselbe Meinung. Das heißt, die geben ein nicht ungünstiges Bild des Kaisers. Prego. Non so completo, risulta che il mito negativo di Barbarossa, da un punto di vista storico, il mito presso gli storici della storiografia, ecco, sì. Mentre il mito popolare negativo di Barbarossa è sopravvissuto di più di lunghissimo, praticamente è ancora. Allora, non è questo un sintomo che la storia della società civile italiana ha continuato a nutrirsi di quella poesia perché corrispondeva alla nostra storia. Diciamo, due guerre mondiali finite contro i tedeschi, se non incominciate, hanno mantenuto in vita il Barbarossa cattivo, mentre il Barbarossa, neutralmente visto dagli storici, in realtà non trova eco, non aveva spazio. Cioè, finirebbe per non dire nulla neanche a noi, come non dice nulla nella società tedesca. Ecco, il problema, Gerhard Nietzsche ha un problema von Österbedeutung. Der Mythos von Barbarossa als historiografischer Mythos ist nicht lang gedauert. Mit dem Positivismus haben wir diesen Mythos weggelassen, weggeworfen. Aber in der öffentlichen Meinung über den Barbarossa und über die Deutschen ist dieser Mythos sehr lang gedauert. Und Fräulein Baroni hat das bemerkt. Es scheint, dass gibt's einen Zusammenhang zwischen die öffentliche Meinung und die Realitäten der Geschichte Italiens auch im 9. und einigermaßen im 20. Jahrhundert, ein Zusammenhang zwischen eine nicht freundliche Meinung mit den Deutschen und das Fortdauern des Mythos von Barbarossa. Signorina, le dico subito che il mito è un mito durissimo a morire, perché nell'opinione pubblica noi abbiamo avuto la terza guerra di indipendenza, noi abbiamo avuto il difficile rapporto delle vicende italo-austriache nella seconda metà dell'Ottocento. Abbiamo avuto la prima guerra mondiale e poi abbiamo avuto molti episodi della seconda, la fine della seconda guerra mondiale. E allora, in tutti questi momenti, ricompare il Barbarossa. Se a voi no, io spero di non, noi parliamo da storici, e quindi io vorrei farvi vedere come il mito del Barbarossa sia diventato il mito del tedesco, che è la cosa più strana. E non mentre l'obiettivo polemico è l'Austria, perché voi vorrei, spero che voi non, che non vi dispiaccia, ma c'è una poesia di un nostro poeta toscano, Giuseppe Giusti, dove si immagina che scusate, lo dico direttamente in tedesco, così è più facile. Wir haben einen Dichter aus Toscana, aus Montecatini, aus Monsummano, der in der Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben hat. Und er ist sehr deutlich. Sehr bedeutend, weil ist ein guter Spiegel der öffentlichen Meinung Italiens in dieser Zeit, in diesen Jahren. Und in einer Dichtung von ihm, in ein Gedicht von ihm, wird das gesagt, dem Polizeipräsident des Großherzogtums von Toscana, der sogenannte Ministro del Buon Governo. Dieser Minister hatte ein wenig überall Spionen gesammelt. Geschicht und die öffentliche Meinung der Einwohner von Toskana zu wissen. Und Giusti, der Dichter, sagt, aber mein Herr, Sie geben vergeblich Ihr Geld. Ich kann Ihnen ganz klar sagen und ganz öffentlich sagen, was wir denken. Und was denkt nach Giusti die öffentliche Meinung Italiens? Scriva, das heißt, schreiben Sie, was ich Ihnen diktiere, was ich Ihnen sage. Vogliamo che ogni figlio d'Adamo conti per uomo e non vogliamo tedeschi. Wir wollen, dass jeden Mensch sei ein Sohn Adams. Doppelpunkt. Aber wollen wir keine Deutschen. Vogliamo i capi col capo. Vogliamo leggi e governi e non vogliamo tedeschi. Wir wollen Menschen, die mit Kopf denken. Wir wollen Gesetze, wir wollen Regierungen. Doppelpunkt, aber wollen wir keine Deutschen. Scriva, vogliamo tutti quanti, siamo l'Italia, Italia e non vogliamo tedeschi. Sagen Sie, wir wollen alle, die wir sind, nur Italien, Italien, Doppelpunkt, wollen wir nicht, keine Deutschen. Vogliamo pagare di borsa e di cervello e non vogliamo tedeschi, arrivederlo. Wir wollen Geld und Kopf spenden, geben, aber keine Deutschen, auf Wiedersehen. Dove, wo wir das sehen, was ein solches historisches Bild von Barbarossa, eine unmittelbare und direkte Konsequenz gehabt hat. Barbarossa ist Deutscher und der deutsche Tyrann. Sie können davon verstehen, welche Bedeutung ein historiografischer Mythos am Ende gehabt hat. Ich habe dieses Gedicht gelesen, überhaupt um das zu zeigen. Welche Bedeutung kann eine historiografische Richtung in der öffentlichen Meinung haben. Daher, unsere Tagung, unsere Diskussion in diesen Tagen ist meiner Meinung nach mehr wichtiger, als es nur abstrakt scheinen kann. C'era un ultimo punto che non so fino a che punto ho inteso bene. In cui lei diceva, dunque, in un certo senso è inutile discutere scientificamente. No, allora ho capito male. Nell'Ottocento c'era stato questo passaggio, la storiografia aveva diventato un mito, ma che adesso non avviene più questo passaggio perché la storia è troppo forte contro la storia. La storia della prima metà di questo secolo. Adesso ecco, forse. Veda, direi che a questo punto bisogna, diciamo così, un po' distinguere nel senso che noi abbiamo una trasformazione, e qui entriamo su un problema che ci tocca molto da vicino e non soltanto per noi italiani, cioè un diverso rapporto tra storia e società. Nell'Ottocento, per opera di quel grande fenomeno culturale che è stato il romanzo storico, vi era un gusto per la storia con lunga durata nel tempo che noi oggi non abbiamo più. Oggi è subentrata al romanzo storico come componente di vita culturale e quindi anche come apertura per la storia, è subentrata invece la Zeitgeschichte, la storia contemporanea. L'attuale trionfo della storia contemporanea è anche il risultato di un differente rapporto tra storia e pubblico. Freud. Nel romanzo storico adesso noi assistiamo al fenomeno che c'è un recupero dell'intero pubblico. Questo, ma non in Italia, non come fatto italiano. Ma Trieste è un'altra. Trieste è una particolare dimensione culturale, come Trento. Non sorgerà a Trento, guardate un po' la cosa. Non sorgerà a Trento. Wir haben jetzt ein Problem der italienischen Kulturgeschichte, das aber auch die Deutschen einigermaßen interessieren kann. Frau Baroni hat das bemerkt. Am Anfang, in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, hat die Geschichte die Macht gehabt, die öffentliche Meinung einzuflüssen. Aber nachher, in diesen letzten Jahrzehnten, ist dieser Zusammenhang zwischen Geschichte und öffentliche Meinung unterbrochen. Daher ist in Italien oft der alte Mythos noch geblieben. Ich habe das antwortet im in dieser Zeit, der Zusammenhang ist nicht mehr zwischen Geschichte und geschichtlicher Roman und Publikum, aber Zeitgeschichte und Publikum. Das heißt, der Unterschied zwischen unserer Generation und die Generationen, die in der ersten Hälfte des Jahrhunderts und noch vorher in lebendig war. Bitte? Ist es denn möglich, dass also öffentliche Meinung und die Historie so auseinanderklappen können? Könnte das vielleicht heißen, dass ein kleiner Teil der Historiographie entmythologisiert hat, aber die Masse der Historiker, die, sagen wir, die popularisieren, dass die im Grunde beeinflusst worden sind von der öffentlichen Meinung? Il professore mi diceva questo, può anche, non è forse il caso di dire diversamente che la differenza, questo fenomeno che la signorina Baroni notava, è il risultato del fatto che vi è certamente il gruppo dei tecnici, un gruppo di storici, diciamo i tecnici, che hanno entmitologizzato, che hanno eliminato il mito, ma che in realtà la opinione comune degli storici in sostanza continua ancora a vivere dei vecchi miti. Sehen Sie, es kann auch das sein. Aber im Allgemeinen, ich bin der Meinung, das ist eine verschiedene Interesse für die Geschichte, die uns die solche Konsequenzen gehabt hat. Aber auch das hat eine, was Sie bemerkt, was Sie mir gesagt haben, hat auch seinen Einfluss. Das heißt, es auch das, die Arbeit der Techniker, der Spezialisten, hat nicht so große Verbreitung gefunden wie damals im 19. Jahrhundert hatte. Die Spezialisierung in der Geschichte kann auch das Folgen, das Sie mir unterstrichen haben. Prego. Prego. Io volevo ricollegarmi anche alla relazione che aveva fatto ieri mattina il professor Appel a proposito della filosofia tedesca. E così mi sembrava di notare che il momento in cui la storiografia tedesca comincia ad interessarsi in modo organico alla figura di Federico Barbarossa, appunto, come sottolineava il professor Appel, è nell'epoca guglielmina, quindi sulla fine del XVIII secolo. E mi sembra. Guglielmina veramente anche prima Gisebrecht è prima dell'epoca Guglielmina. Sì, appunto, questo lo concludo in momenti. Comunque mi sembrava di notare che è il periodo in cui in Italia si comincia invece a vedere nel Barbarossa appunto il cattivo, il tedesco in senso negativo, l'interpretazione negativa del fenomeno, del personaggio Barbarossa. E notavo anche che nella sua relazione di questa mattina lei, professor Manselli, ha due volte citato dei collegamenti tra storiografia italiana e tedesca. Una volta col Voigt, che però si inserisce ancora in questa immagine negativa del Barbarossa, quindi diciamo da parte italiana, se è consentito questo termine, e una volta invece col Ficker, che si riprende il lavoro fatto dal Vignati, cioè nel momento in cui il mito negativo del Barbarossa comincia ad essere superato dalla storiografia. Ora io volevo chiedere se è proprio e dunque da notare, da addebitare a questa interpretazione partigiano risorgimentale che è stata fatta dalla storiografia italiana nella prima metà del XIX secolo, e il fatto che ci siano così pochi collegamenti tra la storiografia italiana e tedesca, cioè che seguono due direttrici così diverse, a differenza invece di quanto avviene adesso, per esempio, in cui c'è un notevole interscambio e non contrapposizione. Vede, signorina, il problema che lei pone è interessante e va in parte ridimensionato. Prima di tutto, è vero che vi erano difficili rapporti. C'è una bellissima lettera inedita del Troia, che spero un giorno di poter pubblicare, in cui il Troia, furibondo perché non riusciva a trovare dei libri, a un bel momento dice: ma in che razza di mondo viviamo? Beato lei, scrive al Balbo, beato lei che qua ha tanti amici, soprattutto tedeschi, che le procurano i libri. E allora il suo problema è reale, cioè vi è effettivamente, tranne alcune eccezioni, una di queste il Balbo, una di queste un gruppo di milanesi di cui parla Berengo nel suo ultimo libro sulle tipografie di Milano, un libro che io mi permetto di consigliare anche ai medievisti, perché si parla di molti libri di storia medievale, tra parentesi, risulta che tranne pochi gruppi erano due storie, due storiografie che camminavano parallele e dove i raccordi erano estremamente difficili. Tanto che vale la pena di ricordare due grandi intermediari tra mondo culturale tedesco e mondo culturale italiano. L'uno l'ho già ricordato ed è il Balbo. Non sono mai riuscito a capire se il Balbo sapesse o non il tedesco. Non sono riuscito ad appurarlo. Prima o poi ci riuscirò. Domandando a Casseren d'Antrero, che di Balbo sa tutto, ma non gli ho avuto occasione di domandarglielo. Però è certo che Balbo ha fatto tradurre a Torino tutta una serie di libri, soprattutto del filone dei giuristi. Di quel filone dei giuristi, la cui importanza ieri nella discussione sottolineava il professor Appel. Per esempio, fa tradurre il lavoro sulle origini dei comuni italiani del Bethmann Hollweg. E ha operato, voi sapete che il Balbo operava anche da consigliere culturale di case editrici, e ha certamente, per influenza del Balbo, è stata tradotta quel popò di opera che è la storia del diritto romano nel Medioevo del Fonsavigli. Quindi invece il secondo intermediario, molto meno noto, è un trentino. Dalla vita tumultuosa, di cui mi dispiace che non sia presente qui il nostro carissimo amico e collega Sestan, che lo conosce molto bene, la cui vita tumultuosa è vissuta sempre tra Italia e Germania, e che ha contribuito anch'egli alla conoscenza della storiografia, soprattutto del filone cattolico. Quindi Papenkort e altri storici, per esempio, della Roma medievale. Sono, che io sappia, i due grandi intermediari come individui. Vi è poi un gruppo milanese cattolico, che ha operato direttamente dalla Germania, ma si interessava soltanto della storia ecclesiastica, ed è il filone che ha consentito la traduzione in italiano, per esempio, della storia dello Hurter su Innocenzo III. Questo per dire una delle opere che ha pubblicato la cultura. Quindi lei, signorina, ha posto in luce un fatto estremamente interessante della nostra storia culturale, che era per taluni riguardi una storia parallela in Italia e in Germania, senza troppi incontri. E aggiungerei, già che parliamo di Federico Barbarossa, senza troppi incontri proprio sul problema della Lega Lombarda, di Federico Barbarossa, eccetera. Voi avete sentito ricordare ieri l'importanza del Ficker. Ebbene, io credo che non ci sia una pagina di Ficker tradotta in italiano, correggetemi, ma non mi pare. Neanche questo breve, relativamente breve, saggio sulla Lega Lombarda, scritta per il Vignati. Io ve lo porterò domani, perché oggi non ce l'ho a casa in fotocopia, non è una grande cosa, si sarebbe potuta tradurre benissimo, niente. La grande opera, l'opera veramente monumentale che ci ricordava il professor Appelt, le Forschungen sulla Rex und Reichsgeschichte Italiens, ebbene, sono assolutamente rimaste lì, traduciamo tutto, ma non quest'opera che per tanti riguardi sarebbe fondamentalissima, e che farebbe bene sempre a tutti, anzi fa sempre bene a tutti riprendere e rileggere. Ich werde zusammenfassen, was mit dem Fräulein diskutiert habe. Das Fräulein hat das bemerkt, die zwei historiografien, die italienische und die deutsche, haben nur wenige Kontakte gehabt. Sie haben parallel marschiert und daher haben sie keine Möglichkeit gehabt, untereinander in Kontakt zu kommen. Ich habe bemerkt, dass leider das wahr ist, dass nur wenige Personen in Italien des ersten 19. Jahrhunderts nur wenige Personen Deutsch kannten und überhaupt über die deutschen Bücher informiert waren. Daher sind diese zwei Historiografien durch mehrere Jahrzehnte parallel marschiert und nur später mit dem Positivismus in Einfluss, in Zusammenhang gekommen. Diciamo che soltanto nell'Ottocento, nel tardo Ottocento, sono entrati in contatto. Devo dire che in questo senso, una grande importanza, ma dopo il 1860, dopo il Risorgimento, hanno avuto alcune personalità di cui oggi ingiustamente parliamo con una certa sufficienza. Un tedesco e due italiani. Il tedesco è Alfred von Reumont. I tedeschi dovrebbero fare un monumento a Reumont, il quale regolarmente, con enorme umiltà, informava sull'archivio storico italiano gli italiani dei libri tedeschi. Ich werde das sofort auf Deutschen sagen. Die Deutschen müssten ein Denkmal dem Andenken von Alfred von Reumont machen. Für alles was die Beziehungen, die kulturellen und historiografischen Beziehungen zwischen Italien und Deutschland betrachtet. Alfred von Reumont, jahrzehntelang hat in dem Archivio Storico Italiano fast regelmäßig in jedem Nummer über die wichtigsten, aber auch über die kleinsten deutschen historischen Werken etwas gesagt. Und so hat regelmäßig, und ich wiederhole jahrzehntelang, die Italiener über die deutschen Geschichtsbücher regelmäßig informiert. Und dasselbe hat für Deutschland, e lo stesso ha fatto per quello che riguarda gli italiani in Germania, da una parte Carlo Cipolla e dall'altra il Villari. Noi troppe volte degli studiosi leggiamo le opere, non guardiamo le cose minori. Und in Deutschland haben dasselbe zwei Italiener gemacht, Carlo Cipolla und Pasquale Villari. Va bene? Prego. Ah, no, un momento. Signorina, no, c'era la signorina Botti. Scusi, mi scuso, ma comunque da un po' che cercavo di avere la soluzione, perché su questo no, desideravo intervenire su questo problema del mito dalla parte di Federico, dall'altra la dicotomia che esiste tra la ricerca storiografica e quello che entra invece come nella cultura in generale, forse nel gusto e anche in un certo senso finisce proprio diventare, si può anche dire, un luogo comune qualche volta. Ecco, e siccome ha evocato il romanzo storico come uno strumento di questa divulgazione e anche come strumento di una formazione del gusto, io vorrei un momento evocare un altro aspetto di questa culturale del secolo scorso che è stata la pittura storica. Pittura storica che sia un melodramma, probabilmente anche quello senza dubbio, ha avuto una certa influenza da questo punto di vista. E mentre si può notare, io credo, proprio a proposito del mito di Federico Barbarossa, che è stato uno dei grandi temi della pittura storica del secolo scorso, perché naturalmente evocava tutte quelle cose di cui ci ha parlato il professor Manselli oggi, che viene rappresentato, queste cose, nella prima metà del secolo, diciamo pure in corrispondenza di quella che era l'analisi storiografica che veniva maturando e veniva elaborata a poco a poco. Poi, nella seconda metà del secolo, nonostante i Vignati, nonostante la presa, diciamo così, di coscienza metodologica da parte dei storici italiani, che naturalmente si rendono conto invece della realtà dei fatti, un po' alla volta la trovano, invece questo aspetto continua imperterrito e va avanti. Non solo. Ecco, però da questo volevo aggiungere una cosa, sono d'accordo certamente da questo punto di vista, però non è solamente una cosa a livello popolare, perché se noi esaminiamo sia la committenza di questi quadri, di queste pitture, sia scrittori che eseguono non siamo a un livello popolare, cioè siamo a un livello culturalmente e direi piuttosto economicamente abbastanza elevato, che però continua a perseverare in questo tipo di gusto che ha trovato un suo mercato molto, molto interessante. Quindi semplicemente non no, ho. No, no, no, è una cosa. Fräulein Bocchi hat das unterstrichen, das heißt, diese Verbreitung des Mythos des schlechten Barbarossas sozusagen hat eine, einen Erfolg gefunden, auch und überhaupt in der Kunst, überhaupt in der Malerei. Und in der Musik, Melodramma, zum Beispiel, Verdi hat ein'opera, La Battaglia di Legnano, die Schlacht bei Legnano, geschrieben. Und wir haben eine große Reihe von Gemälde, die über diese Probleme, die diese Probleme betrachten, diese Ereignisse bemalen. Le dirò, signorina, che sono perfettamente d'accordo sulla importanza di queste fonti. C'è un punto che io vorrei sottolineare e che in un certo senso permette di collegare quanto diceva la signorina Baroni e lei. Veda, lei, la signora Baroni, ha sottolineato piuttosto l'importanza, diciamo così, della, chiamiamolo, del momento popolare. Lei ha sottolineato, e giustamente, che la committenza, in certi casi, non è affatto popolare. Però allora entra, chiamiamolo pure, lo sfruttamento del mito. Cioè usciamo, diciamo pure, dalla storia per entrare nella politica contingente e, diciamo, anche nella politica di bassa cucina. Perché in certi casi, è vero, certe committenze sono perlomeno un po' sospette. Ecco. Bitte schön. Bitte ein wenig lauter. Professor Capitani hat gestern bemerkt, dass es vor allem zwei Themen sind, die italienische Geschichtsschreibung vor allem an Barbarossa interessieren, nämlich seine Auseinandersetzungen mit den Kommunen und seine Auseinandersetzung mit dem Papsttum Alexanders III. Ein Thema, das in der deutschen Geschichtsschreibung sehr im Vordergrund steht, wie ja auch aus dem Vortrag von Professor Appel deutlich hervorgegangen ist, ist die Frage, inwieweit durch die Politik oder respektive inwieweit die Politik Barbarossas eine neue Konzeption der kaiserlichen Herrschaft mit sich gebracht hat und wie dies zu beurteilen ist. Und ich wollte fragen, inwieweit diese Diskussion in der deutschen Historiografie ihren Niederschlag in Italien gefunden hat. Ich wiederhole, weil ich will sicher sein, dass ich recht verstanden habe. Ich werde Italienisch ganz langsam sprechen. Lei mi pone il problema, collegandosi a quello che accennava il professor Capitani ieri a proposito della politica dei comuni e di Alessandro III, inwieweit, fino a che punto il Barbarossa ha una politica originale, una politica personale e fino a che punto l'ha interpretata e realizzata. Bist recht verstanden? Nein, ich finde, diese Politik ist neu. Ja. Ha una concezione nuova della sua, sì, dell'impero e ma veramente suoi diritti. Veramente su questo dovrebbe, mi permetto di dire, può rispondere molto meglio di me il professor Appelt, che oltretutto ha studiato la Kaiser Idee di Friedrich Barbarossa. Quindi a questo momento io parlo, vorrei dire, un pochino a titolo personale e su esperienza personale. Io ho l'impressione che, io ho l'opinione che Federico Barbarossa rappresenti per molti aspetti, possa rappresentare per molti aspetti un elemento nuovo nella realtà tradizionale dell'idea imperiale, in quanto vi è una serie di problemi che mi sembrano preoccupino profondamente Federico Barbarossa. Ed è, se non mi sbaglio, ma proprio per questo possiamo discutere, ed è il problema di quello che rimane il modulo permanente di una linea che non è soltanto di Federico Barbarossa, ma degli Sveri, ed è quello che egli sottolinea molte volte, pax et justitia. Credo che su queste due parole, che molte volte vengono intese come un leitmotiv senza consistenza, noi dobbiamo riflettere, perché il grande dramma di Federico I, ma anche un po' degli Sveri, è quello del riportare il valore della legge, il valore della giustizia intesa come dominio dello ius, della legge. Qui è il punto sul quale a un bel momento si è verificato lo scontro. Perché? Ma perché vi erano forze nuove che in un certo senso si venivano scontrando con una nuova concezione della realtà dello Stato. Io oso dir questo, ed è un problema sul quale naturalmente penso che si debba discutere. Ma una indicazione che in questo senso è estremamente significativa e mi aiuta a essere di questa opinione è il famoso passo di Ottone di Frisinga sulle città italiane. Un passo che leggeremo migliaia di volte, ma che non per questo dopo mille volte è meno importante, quando dice che queste benedette città italiane sono così profondamente amanti della libertà, e in questo c'è un apprezzamento che contraddice con quello che però viene dopo, tanto amanti della libertà che rifiutano il diritto, che non accettano l'ordine e la pace imposta dal diritto. Quindi io credo che è qui il punto sul quale, credo che nei prossimi giorni torneremo, io espongo una, proprio il caso di dire, una Meinung, e mi auguro nei prossimi giorni di poterla vagliare e discutere insieme con voi. Vi è in Germania per delle ragioni, in Italia per delle altre ragioni, vi è un ordine. Vi sono stati i contrasti di Lothar von Supplinburg und Konrad der Dritte. In Italia il movimento comunale. In Germania Federico trova la soluzione che poi sarà tanto importante da essere il principio di uno sviluppo, la importante soluzione della formazione del Territorialstaat. In Italia non ha alternativa, è qui il punto. E qui ritorniamo un pochino anche al problema che accennava ieri sera con l'IVA, e cioè se e fino a che punto questa idea imperiale romana, che in qualche modo, prescindendo dal favore o non, ma che in qualche modo gli hanno dato, in che modo questa legge imperiale romana ha avuto influenza sulla sua politica per le città. Ich werde mich zusammenfassen, meiner Meinung nach, aber ich wiederhole meiner Meinung nach, ist eine Neuheit das Ideal, das Friedrich Barbarossa immer mehr wiederholt hat und das ein Leitmotiv ihrer Politik ist, Pax und Justitia. Das heißt, ein Frieden, der mit dem Recht errungen ist, haben kann. Und in diesem Sinn, in dieser Meinung, gibt mir eine Bestätigung, was Otto von Freising gesagt hat. In dem berühmten Kapitel seines Werkes, wo er von den italienischen Städten spricht. Und in diesem Kapitel, was sagt er? Die Italiener sind so unruhig, die italienischen Städte sind so unruhig, dass sie erzogen Freiheit mehr als Frieden durch Gesetz, Frieden durch Justitia. Aber was wir in den nächsten Tagen diskutieren werden, wird meine Meinung korrigieren, verbessern oder auch eliminieren. Daher sind wir hier in Diskussion. War ich klar? Sind Sie? Ja, naja, die Frage, die ich eigentlich gestellt habe, ist, ist da eine Diskussion, wie wir sie in den nächsten Tagen führen werden? Ist die in der italienischen Historiografie überhaupt schon geführt worden in der letzten Zeit? Sehen Sie, la storiografia italiana in questi ultimi tempi ha seguito con attenzione questo problema. Ed io, su questo punto, poiché non posso ancora prolungarmi, su questo punto mi permetterei di indicarle come, ich werde Ihnen zeigen, als ein wichtiger Aufsatz über diese Probleme, den Professor Tabacco gerade in Alexandrien gehabt hat, wo er hat das in neuer Form, hat gerade das betrachtet, was sie interessiert. Das heißt, wie die moderne Historiografie hat diese Probleme der Kaiseridee, aber nicht als ideelle Realität, aber als politische Praxis, diese Kaiseridee betrachtet und studiert. Ich erinnere nicht gut den exakten Titel dieses Vortrages, dieses Aufsatzes, aber sehen Sie, es ist nicht schwer, in den Akten, in den Sammelband der Vorträge von Alessandria, Popolo e Stato nell'età di Federico Barbarossa, werden Sie diesen Vortrag von Professor Tabacco. Bitte schön. Wir haben von den beiden Hauptthemen der italienischen Historiografie gehört, Kampf gegen den Papst und gegen die lombardischen Städte. Nach Ihren Ausführungen bin mir eigentlich der Eindruck entstanden, dass die 18. und 19. Jahrhundert der Kampf gegen die lombardischen Städte weit überwiegt in der Behandlung gegen den Kampf gegen Alexander III. Ich möchte Sie da nur ganz kurz fragen, glauben Sie, dass eben der italienischen Intelligenz, der Aufklärung des Risorgimento, natürlich der Papst nicht mehr als der geeignete Vertreter Italiens gegen diesen deutschen fremden Kaiser erschien. Sì. Mi è stato domandato che ich werde noch mal mich wiederholen, weil nicht immer alles verstehen kann. Sehen Sie, mi è stato domandato da una parte che la diciamo così, partendo dalla constatazione che la storiografia italiana si è soprattutto interessata del problema del rapporto tra l'imperatore e i comuni, è vero, quale atteggiamento e quale importanza nella discussione, soprattutto nella discussione del Risorgimento, ha avuto la posizione del papato e soprattutto la posizione di Alessandro III. Devo dire una cosa che può sembrare molto strana, ma dopo il Risorgimento, Alessandro III non ha avuto il rilievo e l'importanza che merita. Si è studiato di lui il problema e la concezione pontificale, ma lo ha fatto un francese, il Pacot, in un grosso libro, Alexandre Troyes e sai, idee pontificali, qualcosa del genere, da una parte. E dall'altra, Alessandro III entra sempre come personaggio all'interno del discorso politico piuttosto che del discorso ecclesiastico. Bisogna dire che in generale è proprio il professor Capitani che sta riprendendo il problema, al quale è giunto attraverso una meditazione, ve ne siete accorti già ieri sera, attraverso una discussione e meditazione storiografica sul problema del papato impero. Non so se mi sono spiegato. Purtroppo, ma non solo in Italia, noi non abbiamo una monografia, uno studio, un lavoro su Alessandro III come meriterebbe e come non c'è dall'Ottocento in poi. Come? Sì, tutto, ma siamo al 1980, insomma, o se vogliamo 63. Ich möchte nochmal zurückkommen auf diesen negativen Mythos, Friedrich Barbarossas in der heutigen Zeit in Italien. Wie wird eigentlich Friedrich Barbarossa in den heutigen italienischen Schulbüchern dargestellt? Ist es so kursorisch, dass man nichts mehr hört darüber? Oder kommt hier immer noch Lega Lombarda und der Schwur von Pontida? Oder wie ist die Darstellung des Lei mi pone una domanda imbarazzante, avendo scritto anche un manuale scolastico. Quindi io direi questo, per la verità. Nei nostri manuali, ormai, nonostante il permanere del mito, in sostanza si è dinanzi ad una valutazione, diciamo, obiettiva di Federico Barbarossa. Con un fatto che però si spiega, con una prevalenza data a Federico Barbarossa come personaggio di storia italiana. Cioè Federico Barbarossa viene ricordato più per la storia italiana che non per l'altro importantissimo fenomeno che credo nei prossimi giorni, non ne abbiamo ancora parlato, ma nei prossimi giorni sono sicuro che emergerà, il problema della espansione del mondo durch Heinrich der Löwen, ma la espansione della Deutschtum nella direzione dell'est. Per esempio, io credo di averlo detto, ma adesso mi fate di dubbio, non sono sicuro di averlo detto, anche se sono convinto che è una delle che è molto più importante di tutta la politica italiana, ma senza dubbio è la parte italiana di Federico Barbarossa che interessa di più. Herr Riedmann hat mich befragt, in welches Bild Friedrich Barbarossa geben unsere Schulbücher. Und ich habe gesagt, dass im Allgemeinen der alte Mythos ist verschwunden. Aber trotzdem ist überhaupt das Bild des Barbarossa als Persönlichkeit der italienischen Geschichte dargestellt, mehr als Persönlichkeit der italienischen, der deutschen Geschichte. Zum Beispiel, ich meine, dass im Allgemeinen, ich selbst in meinem Schulbuch weiß ich nicht, ob ich das gesagt habe, zum Beispiel wird fast nichts oder gerade nichts gesagt über die Ausbreitung des Deutschtums im Osten. Das ist sehr wichtig, das ist sehr bedeutend für die europäische Geschichte, aber trotzdem ist in unseren Büchern fast, fast nichts gesagt. Sei molto da vicino alle vicende politiche che allora volevo chiederle, l'europeismo che influenza ha avuto o ha in questo momento su questa evoluzione? Se ad esempio se è arrivati al punto di eliminare il mito, ma fino a quel punto può essere un freno per la verità, cioè per la realtà. Non so se mi sono spiegato, cioè se ci sono dei pregiudizi nuovi che l'europeismo potrebbe portare in questo senso, un contromito in questo senso. Il problema è indubbiamente interessante. Das Problem, das mir vorgestellt wird, ist das folgende. Das heißt, in der neuen Anschauung der europäischen Geschichte, von einem europäischen Gesichtspunkt, welche Bedeutung kann Friedrich Barbarossa haben? Es kann eine hemmende Kraft sein oder eine stimulierende Kraft sein von einem europäischen Gesichtspunkt. Vede, il problema è grosso, perché diversamente da Carlo Magno, Federico Barbarossa non ha avuto mai una importanza, come dire, e un dominio europeo. Non bisogna mai dimenticare, ed è estremamente significativo, che un personaggio che conosce splendidamente la storia dell'Europa del tempo, e che è del tempo, John of Salisbury, di cui appunto avrei dovuto parlare a Salisbury a proposito della sua conoscenza delle cose italiane, splendida, va bene, John of Salisbury, quando parla di Federico Barbarossa in una frase che conoscete tutti benissimo, dice queste testuali parole, ma insomma, chi ha dato a Federico Barbarossa il diritto di credere di rappresentare tutti quanti nel mondo? Che è la negazione del mito imperiale, qui adopero la parola in un altro senso. Cioè, con Federico Barbarossa l'impero ha perso il suo valore spirituale e direi ecclesiastico. Non a caso, guardate, non a caso Capitani ieri insisteva sul problema della importanza universale ecclesiastica dell'impero. Non a caso in Alessandro III il ricondurre Federico Barbarossa e l'impero advocatus ecclesiae ha un suo valore, perché non c'è più solo l'impero, ma c'è il regno di Francia, c'è il regno d'Inghilterra, c'è il regno di Spagna, ci sono i regni del nord. Quindi bisogna tenere presente tutto questo. Allora direi che la realtà di Federico Barbarossa da un punto di vista europeo è interessante più per quella che è stata la sua azione politica in Europa quindi espansione verso l'est, consolidamento della germanicità, formazione dello Stato territoriale e quindi della Germania come realtà e complesso di stati territoriali, che non sul piano, diremo noi, di quello che lei, con la parola che oggi è esatta e pertinente, chiamava l'europeismo. Ich habe antwortet im Sinne, in diesem Sinn, Friedrich Barbarossa war Kaiser, aber im Sinne des 12. Jahrhunderts und nicht mehr im Sinne der der anderen, der vorgängenden Jahrhunderte. Daher, er hat europäische große Bedeutung als mehr als Kaiser und Kaiser in Italien und König in Italien und König in Deutschland für die Verbreitung des Deutschtums im Osten und so weiter, als Kaiser im geistlichen und kirchlichen Sinn. Sono esattamente le 12:45, credo che per ragioni organizzative, anche se volessimo continuare, dobbiamo fermarci per il nostro, del resto, ben meritato lavoro e pranzo. Prego. Per ragioni